Lettera agli ebrei. Iddio, che nel tempo antico aveva parlato ai padri nei profeti, in una successione e varietà di modi, in questa fine dei tempi ha parlato a noi nel Figlio, che egli costituì sovrano padrone di tutte le cose e per mezzo del quale creò l'universo. Questi, essendo l'irraggiamento della gloria e l'impronta della sua sostanza, e portando tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, si è assiso alla destra della maestà nei luoghi eccelsi, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ricevuto in eredità. A quale angelo, infatti, disse mai Dio: Figlio mio sei tu, io oggi ti ho generato? E di nuovo: Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. Di nuovo, quando introduce il primogenito nell'universo, dice: E lo adorino tutti gli angeli di Dio. E mentre degli angeli dice: Fa i suoi angeli come venti, e i suoi servi come fiamma di fuoco. Del Figlio, invece: Il tuo trono, o Dio, è per i secoli dei secoli, e lo scettro dell'equità è scettro del tuo regno. Hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò, o Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di esultanza, a preferenza dei tuoi compagni. E ancora: Tuo Signore, alle origini hai fondato la terra, e i cieli sono opere delle tue mani. Essi periranno, tu invece rimani, e tutti invecchieranno come un vestito, come mantello li arrotolerai, come una veste, e saranno messi da parte. Tu invece sei lo stesso, e i tuoi anni non finiranno. E di quale angelo disse mai: Siedi alla mia destra, fino a che non ponga i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Non sono tutti spiriti servitori mandati al servizio di quelli che erediteranno la salvezza? Perciò bisogna rimanere attaccati con grande diligenza alle cose udite, per timore di decadere. Se infatti la parola pronunciata mediante gli angeli fu garantita, e ogni trasgressione e disobbedienza ricevette una giusta retribuzione, come sfuggiremo noi se trascureremo così grande salvezza, la quale incominciò ad essere annunziata mediante il Signore e fu garantita a noi da quelli che l'ascoltarono, avendo Dio concorso alla loro testimonianza con la sua, mediante segni e prodigi e vari atti di potenza e con distribuzioni di Spirito Santo secondo la sua volontà. Infatti, non agli angeli ha sottomesso il mondo futuro del quale discorriamo, ma qualcuno ha dichiarato in qualche luogo: Che è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu lo visiti? Tu l'hai per poco abbassato al di sotto degli angeli, lo hai coronato di gloria e d'onore, hai messo sotto i suoi piedi tutte le cose. Infatti, nell'aver sottomesso tutto a lui, non ha lasciato nulla che non gli fosse soggetto. Nel tempo presente, però, non vediamo ancora tutte le cose a lui sottomesse. Contempliamo invece Gesù, per poco abbassato al di sotto degli angeli, coronato di gloria e onore attraverso la passione della morte, affinché per la bontà di Dio gustasse la morte per ogni uomo. Infatti, a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, che conduce alla gloria numerosi figli, conveniva perfezionare per mezzo della passione il capo della loro salvezza. Infatti, colui che santifica e quelli che sono santificati sono tutti da uno, per la qual cosa non ha vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, inneggerò a te in mezzo all'assemblea. E di nuovo: Io confiderò in lui. E ancora: Ecco me e i figliuoli che Dio mi ha dato.

perché non diventiate fiacchi, al contrario, siate imitatori di quelli che ereditano le promesse mediante la fede e la longanimità. Dio, infatti, nel fare una promessa ad Abramo, poiché non aveva nessuno più grande per cui giurare, giurò per se stesso dicendo: «Certamente ti colmerò di benedizioni e ti moltiplicherò in modo straordinario». E così Abramo, dopo aver atteso a lungo con pazienza, conseguì la promessa. Gli uomini infatti giurano per uno più grande, e il giuramento per essi è una garanzia che pone fine ad ogni controversia. Perciò Dio si fece garante con giuramento, volendo fornire agli eredi della promessa una prova più convincente della immutabilità della sua decisione, affinché, mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio mentisca, noi, i rifugiati in Lui, avessimo un forte incoraggiamento ad impadronirci della speranza messaci davanti, la quale abbiamo come ancora sicura e solida per l'anima e penetrante nella parte oltre il velo, dove è già entrato per noi precursore Gesù, divenuto sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Infatti, questo Melchisedec, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, venne incontro ad Abramo che ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse, al quale Abramo assegnò come sua parte la decima di tutto. Egli viene interpretato anzitutto re di giustizia, poi re di Salem, cioè re di pace. Presentato senza padre e senza madre, senza genealogia, non avente né principio di giorni né fine di vita, assimilato al figlio di Dio, rimane sacerdote in eterno. Considerate quanto grande deve essere colui al quale Abramo diede la decima della parte più eccellente, lui, il patriarca. E quelli tra i figli di Levi che ricevono il sacerdozio hanno ordine, secondo la legge, di prelevare le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, usciti come sono dai lombi di Abramo. Costui, invece, che pure non è iscritto nelle loro genealogie, ha prelevato la decima su Abramo e ha benedetto colui che aveva le promesse. Ora è fuori di ogni discussione che viene benedetto il più piccolo dal più grande. E qui sono uomini mortali quelli che ricevono le decime. Là, invece, è uno di cui è testificato che vive. E per modo di dire, in Abramo anche Levi, che pure ora preleva le decime, le ha pagate, perché quando Melchisedec si fece incontro ad Abramo, Levi era ancora nei lombi del padre. Se dunque mediante il sacerdozio levitico si fosse raggiunta la perfezione, infatti sotto di esso il popolo fu sottoposto a una legge, che bisogno c'era ancora che sorgesse un sacerdote differente, secondo l'ordine di Melchisedec, e non fosse denominato secondo l'ordine di Aronne? Infatti, se viene cambiato il sacerdozio, necessariamente avviene anche un cambiamento di legge. Colui, infatti, del quale queste cose sono dette, è partecipe di un'altra tribù, della quale nessuno si è consacrato all'altare. È notorio, infatti, che il Signore nostro è germinato da Giuda, della quale tribù Mosè non ha detto nulla trattando dei sacerdoti. E tutto ciò è ancora più evidente se sorge un sacerdote differente, secondo la somiglianza di Melchisedec, il quale è stato costituito non secondo le leggi di prescrizioni carnali, ma secondo una forza di vita indistruttibile. Riceve infatti la testimonianza: tu sei sacerdote per l'eternità, secondo l'ordine di Melchisedec. Infatti, il precedente ordinamento è stato abrogato a ragione della sua debolezza e inutilità. La legge, infatti, non condusse nulla a perfezione. Invece è stata fatta entrare nel mondo una speranza superiore, per la quale ci avviciniamo a Dio. E in quanto ha ricevuto il sacerdozio non senza giuramento, intanto Gesù è divenuto garante di una migliore alleanza. Gli altri sono divenuti sacerdoti senza giuramento, questi invece col giuramento di colui che gli dice: il Signore ha giurato e non se ne pentirà, tu sei sacerdote per l'eternità. E quelli sono divenuti sacerdoti in molti, perché la morte impediva loro di rimanere. Questi invece, per il fatto che rimane in eterno, ha un sacerdozio non trasmissibile. onde può anche salvare per sempre quelli che mediante lui si avvicinano a Dio, essendo sempre vivente per intercedere in loro favore. A noi occorreva infatti un tale sacerdote, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori, innalzato più in alto dei cieli, il quale non ha bisogno tutti i giorni di offrire vittime prima per i propri peccati, poi per quelli del popolo, come i sommi sacerdoti, perché questo egli ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. Infatti, la legge costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza. La parola invece del giuramento, posteriore alla legge, costituisce il Figlio, reso perfetto per l'eternità. Il punto centrale delle cose che stiamo dicendo è questo. Noi abbiamo un tale sommo sacerdote che si è assiso alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del tabernacolo vero, che ha fatto il Signore, non un uomo. Ogni sommo sacerdote, infatti, viene stabilito per offrire doni e sacrifici. Perciò è necessario che anche questi abbia qualche cosa da offrire. Se dunque fosse sulla terra, non sarebbe neppure sacerdote, essendovi quelli che offrono i doni secondo la legge, i quali servono in immagine e ombra delle cose celesti, conforme all'oracolo di cui è stato beneficato Mosè quando stava per compiere il tabernacolo. Guarda, dice infatti, di fare tutto secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ma ora Cristo ha ricevuto un ministero tanto più eccellente quanto più eccellente è l'alleanza di cui egli è mediatore, la quale appunto è stata fondata su migliori promesse. Se infatti quella antica fosse stata irreprensibile, non si sarebbe cercato il posto per una seconda. Rimproverandoli, infatti, dice: ecco, vengono i giorni, dice il Signore, e io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda una nuova alleanza. Non sarà come l'alleanza che ho fatto con i loro antenati, nel giorno in cui li ho presi per mano per trarli fuori dall'Egitto. Poiché essi non rimasero nella mia alleanza, anch'io, dice il Signore, li ho trascurati. Perché questa è l'alleanza che contrarrò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io darò le mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Essi non avranno più da istruire ciascuno il suo concittadino e ciascuno il proprio fratello, dicendo: conosci il Signore. Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Perché io sarò misericordioso verso le loro iniquità, e dei loro peccati non mi ricorderò mai più. Nel parlare di un'alleanza nuova, Dio ha reso antiquata la precedente. Ora, ogni cosa che viene resa antiquata e che invecchia è vicina a scomparire. Certo, anche la prima alleanza aveva ordinamenti cultuali, come pure un santuario, ma terrestre. Infatti fu preparata una tenda, la prima, nella quale vi erano il candelabro e la tavola e i pani esposti, la quale è detta il Santo. Poi, dietro il secondo velo, vi era una tenda chiamata Santo dei Santi, contenente l'altare d'oro dell'incenso e l'arca dell'alleanza, d'ogni parte ricoperta d'oro, nella quale vi erano un'urna d'oro che conteneva manna, e la verga di Aronne, che era fiorita, e le tavole dell'alleanza. Sopra di quella vi erano i cherubini di gloria che facevano ombra sul propiziatorio, delle quali cose non è ora da discorrere in particolare. Essendo le cose così disposte, nella prima parte del tabernacolo entrano sempre i sacerdoti, quando hanno da compiere i servizi del culto. Invece nella seconda parte entra solo il sommo sacerdote, una volta l'anno, e non senza sangue, che egli offre per i peccati di ignoranza suoi e del popolo. Così lo Spirito Santo ha voluto mostrare che non era ancora aperta la via al santuario, finché rimaneva in piedi la prima tenda del tabernacolo, la quale è parabola del tempo presente. Secondo essa si offrono doni e sacrifici che non possono rendere perfetto secondo coscienza l'adoratore, consistendo solo in cibi, bevande e molteplici abluzioni, ordinamenti carnali imposti fino al tempo della Riforma. Cristo però, apparso come sommo sacerdote dei beni futuri, per una tenda più grande e più perfetta, non manufatta, cioè non di questa creazione, né mediante sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue è entrato nel santuario una volta per tutte, perché ha trovato un riscatto eterno. Infatti, se il sangue dei capri e dei tori e la cenere di vacca aspersa sui contaminati santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mediante uno spirito eterno, ha offerto se stesso senza macchia a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire al Dio vivo. Perciò egli è il mediatore dell'alleanza nuova, affinché, essendo intervenuta una morte in redenzione delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, i chiamati ricevessero la promessa dell'eterna eredità. Ove infatti vi è un testamento, è necessario che venga denunziata la morte del testatore, perché il testamento è valido solo in caso di morte, dal momento che non ha nessuna forza finché è in vita il testatore. Di qui deriva che neppure la prima alleanza è stata sancita senza sangue. Infatti, dopo che da Mosè fu proclamato a tutto il popolo ogni comandamento, secondo la legge, egli, preso il sangue dei vitelli e dei capri, con acqua e con lana scarlatta e con issopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: «Questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha prescritto per voi». Nella stessa maniera asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli utensili del culto. E secondo la legge, quasi tutte le cose vengono purificate col sangue, e senza effusione di sangue non vi è remissione. È necessario dunque che le figure delle cose che sono nei cieli siano purificate con queste aspersioni, le cose celesti stesse con sacrifici più perfetti di quelli. Cristo, infatti, non è entrato in un santuario fatto da mano d'uomo, antitipo del vero, ma nel cielo stesso, allo scopo di presentarsi ora davanti alla faccia di Dio per noi, non per offrire se stesso parecchie volte, come il sommo sacerdote entra nel santuario ogni anno col sangue di un altro, altrimenti egli avrebbe dovuto patire parecchie volte fin dalla creazione del mondo. Ora invece egli, una volta sola, nella consumazione dei secoli, si è manifestato col sacrificio di se stesso per l'annullamento del peccato. E come è stabilito per gli uomini di morire una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo una volta sola è stato offerto per levar via i peccati di molti, e apparirà una seconda volta senza peccato per quelli che lo attendono per la salvezza. Infatti, la legge, che ha un'ombra dei beni futuri, non l'immagine stessa delle cose, non può con gli stessi sacrifici che si offrono ogni anno indefinitamente rendere perfetti quelli che si accostano a Dio. Altrimenti non avrebbero cessato di essere offerti, per la ragione che gli offerenti, purificati una volta, non avrebbero più nessuna coscienza di peccato. Al contrario, in essi ogni anno si rinnova il ricordo dei peccati. È impossibile, infatti, che il sangue dei tori e dei capri tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, dice: «Non hai voluto sacrificio né oblazione, ma tu mi hai preparato un corpo. Non hai gradito olocausti né sacrifici per i peccati. Allora io dissi: ecco, vengo. Nel rotolo del libro è stato scritto di me, o Dio, per fare la tua volontà». Anzitutto dice: «Non hai voluto né gradito sacrifici né oblazioni

misero in fuga eserciti di stranieri. Alcune donne ricevettero i loro morti per la risurrezione. Altri furono torturati col timpano, non accettando la liberazione, per avere in sorte una risurrezione migliore. Altri sperimentarono trattamenti ignominiosi e frustate e ancora catene e carcere. Furono lapidati, segati, messi alla prova, morirono uccisi da spada. Andarono in giro vestiti di pelle di montone o di capra, bisognosi, oppressi, maltrattati, dei quali il mondo era indegno. Andavano errando per i deserti, per i monti e per le spelonche e caverne della terra. E tutti questi, pur avendo ricevuto, a causa della fede, una testimonianza, non raggiunsero la promessa, avendo Dio predisposto per noi qualcosa di meglio, perché non arrivassero alla perfezione senza di noi. Dunque, anche noi, dal momento che abbiamo una tale nube di testimoni che ci circonda, con pazienza corriamo la gara che ci viene messa innanzi, dopo aver deposto tutto ciò che appesantisce e il peccato che ci irretisce, avendo lo sguardo fisso su Gesù, autore e consumatore della fede, il quale, in luogo della gioia che gli si proponeva davanti, si sottopose alla croce, sprezzando l'ignominia, e ora siede alla destra del trono di Dio. Infatti, ripensate a colui che ha sofferto in se stesso siffatta contraddizione da parte dei peccatori per non stancarvi, lasciandovi intorpidire nelle anime vostre. Finora non avete, nella lotta contro il peccato, resistito fino al sangue, e vi siete dimenticati della esortazione che si rivolge a voi, come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti scoraggiare quando sei da Lui ripreso. Il Signore infatti corregge colui che ama e frusta ogni figlio che Egli accoglie. Per correzione voi soffrite. Dio si presenta a voi come a figli. Qual è il figlio che il padre non corregge? Se invece siete senza correzione, della quale tutti sono diventati partecipi, allora siete dei bastardi e non figli. Noi avevamo come correttori i padri della nostra carne e li veneravamo. Non saremo noi molto di più sottomessi a Dio, Padre degli spiriti, per avere la vita? Infatti, quelli ci correggevano per pochi giorni, secondo ciò che loro sembrava bene. Egli, invece, per il nostro vantaggio, per farci partecipare alla sua santità. Ogni correzione, sul momento è vero, non appare causa di gioia, ma di dolore, ma più tardi porta in cambio un frutto pacifico di giustizia a quelli che sono stati esercitati da essa. Perciò raddrizzate le mani inerti e le ginocchia paralizzate, e fate dritti i sentieri per i vostri piedi, perché ciò che è zoppo non abbia a deviare, ma piuttosto sia guarito. Perseguite la pace con tutti e la santificazione, senza della quale nessuno potrà vedere il Signore, vigilando perché nessuno sia mancante alla grazia di Dio, perché non nasca alcuna radice amara e diventi causa di torbidi, e per mezzo di questa non siano infettati molti. Nessuno sia fornicatore né profanatore, come Esaù, che per una vivanda rinunziò ai suoi diritti di primogenitura. Sapete infatti che in seguito, volendo egli ereditare la benedizione, fu rigettato. Infatti non trovò luogo a pentimento, nonostante che con lacrime cercasse di ottenerlo. Voi infatti non vi siete avvicinati a qualcosa di palpabile e ad un fuoco ardente, né ad oscurità, tenebra e procella, né a squillo di tromba e a suono di parole, tale che quelli che l'udirono supplicarono che non si rivolgesse più loro la parola. Essi infatti non riuscivano a sopportare l'ordine. Anche se un animale tocca la montagna, sia lapidato. E Mosè, tanto era terribile lo spettacolo, disse: «Io sono spaventato e tremante». Al contrario, vi siete avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e alle miriadi di angeli, ceto trionfante e assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, a Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti giunti al perfezionamento, a Gesù, mediatore di un'alleanza nuova, e al sangue di aspersione che parla meglio di quello di Abele.